I primi schieriamo un paio di punti, che due punti sono punti presi da tre punti. Punto, ci sediamo e facciamo due chiacchiere. Chi tra le due muove il becco come nacchere? Ora la caccia aperta, tutti sotto coperta. Hai voluto la guerra, ora paghi ogni conseguenza. Pensa col tuo cervello, ammesso che tu ce l'abbia. Scappa, su piani che ne morde ne appaia. Io sono la calappia, pronto ad acchiapparti per mostrarti ammaliarti. Questa è l'alba dei morti, non ci sono sotterfugi. Rifugi, fungi, lungi, non pungi. Il mio rapper regista, non quindi sloggi. Come morgi, prendo lo scandalo. Non capisci un ortaggio di pop, sei nato sotto un cavolo. È pratico, questa musica effetto. La paura fa 90, mettiti in angolo retto. Non mi fermo, è l'inferno, ogni fiamma la scavalco. Ti dedico sto minuto di violenza ed è già tanto. Stupide tendenze, sei come un pelo tra la mette. Vuoi buttare frecciatine e vai a giocare a freccette. Pensa come stiamo messi lontano e sicuro. Ma avrei fatto 3000 dissi, non ho sentito nessuno. Perché non sei potente perché rapido un anno. Parli di pistole puttane, dove stanno? Io dal basso sarà di anni in settimo. Di che questi coglioni fai loro.